che fai? Non senti il suo profumo nell'aria dell'anima? Perdi. Io soffro, padre, soffro. Chiamalo, stringiti a me, e io parlagli tu. Qui salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano. Signore, piano, fermo. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Mi salvezza la vita, padre, qui. Thank you. regina cora nera, un cammino sol più chiare delle divini turendo. Ferro bronzo mura raggia costina da tua capoccia, sol venturi delle divini turendo. Dunque passano da tutti i barca i monti, dalle flutti, dalla larga, dalle divini turendo. Thank you. piangere giù, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso.

mai si sogna e il palazzo già fornito la tua i servi di soda un di più grande muro del vecchio già scrivono le finite già vale di pechino udite trombe altro che pace ma inizia la cerimonia abbiamo a poterci il medesimo splizio Thank you. Thank you. Oh,